La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della Gioventù. Siamo partiti in 27, solo in 5 siamo tornati qua e quegli altri 22 sono morti tutti a San Donà. Cara suora, son ferito, a domani non ci arrivo più, se non torno alla mia mamma, questo fiore ce lo porti tu. A Nervesa c'è una croce, uno dei nostri sta disteso là. Io c'ho scritto su Ninetto che la sua mamma